Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia. Di Dino Pesole. Si discute molto oggi, sotto i colpi della grave crisi economica innescata dalla pandemia, su come rifondare gli assetti finanziari mondiali già duramente messi alla prova dagli epigoni della globalizzazione, così come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. Vale la pena allora di tornare indietro nel tempo per raccontarvi, cari ascoltatori, di come nel passato vi siano stati diversi esempi di quella che potremmo definire una globalizzazione ante litteram, in cui si registrò un notevole sviluppo delle merci e degli scambi. Nella prima metà del Cinquecento, ad esempio, spetta ad Anversa il primato della principale piazza finanziaria europea. Crediti e merci che vedevano interagire il mondo dei mercanti e i banchieri. Questa sera ne parliamo traendo spunto non da un saggio ma da un romanzo, scritto per Neri Pozza da Marco Videtta, scrittore e autore televisivo, dal titolo L'uomo che scrisse la Bibbia. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, nel libro si racconta la storia di William Tyndale, l'uomo che scrisse il libro più letto nella storia dell'Occidente, la Bibbia in inglese. Allora, ascoltiamo insieme prima di tutto questo passaggio del libro in cui si racconta dell'arrivo di Tyndale ad Anversa nel corso del suo lungo peregrinare per sfuggire a complotti e sicari, mentre traduceva in inglese la Bibbia. Nessuno può dire di aver conosciuto il mondo se non è stato almeno una volta ad Anversa. A me, che avevo trascorso gli ultimi anni nella quiete studiosa di Cambridge e tra le quattro pareti del rifugio di Colonia, la vista di quella città moderna e cosmopolita diede le vertigini. Per le strade sentivi parlare le lingue più disparate: inglesi, francesi, tedeschi, danesi, italiani, spagnoli e portoghesi affollavano le viuzze degli angiporti, vendevano e compravano ogni tipo di merci, gioielli e pietre preziose, mercurio, sete raffinate, lingotti d'oro, fili d'argento. Nonostante la presenza delle autorità cattoliche spagnole, Anversa era un porto franco e quelle migliaia di stranieri, in gran parte mercanti, vi risiedevano in permanenza nel rispetto di leggi e usi locali, preservando al tempo stesso i costumi dei loro paesi d'origine. Lo spettacolo raro di una moltitudine così composita e variegata, che viveva insieme come una grande famiglia, mi commosse. Era un continuo di gaie riunioni, festeggiamenti nuziali e danze. Musiche e canti risuonavano nelle strade attirandoti con il loro irresistibile richiamo. Poi nel romanzo Marco Videtta si racconta che Tyndale fece ritorno ad Anversa nel 1533 e la città era tutta un cantiere, i traffici erano ulteriormente aumentati e 2 anni prima era stata fondata la borsa per contrattazioni e operazioni di credito. Dunque si tratta di una metropoli finanziaria a tutti gli effetti. Senz'altro, pensi che nel 1531 apre i battenti la nuova banca di Anversa con un'iscrizione in latino su cui è scritto «per gli uomini d'affari d'ogni lingua e nazione». E in effetti nel 500 il mondo diventa molto più grande e prende conoscenza e coscienza di se stesso, cioè l'Europa scopre l'America ovviamente, ma riscopre anche l'Asia, l'Africa, quindi i commerci si sviluppano a livello planetario e il concetto stesso di impero non è più sacro e romano, ma si potrebbe dire coloniale. Arrivano merci di ogni tipo e per mantenere un impianto del genere da un punto di vista proprio amministrativo naturalmente si sviluppa burocrazia, bisogna mantenere flotte transoceaniche, eserciti per fare la guerra o persino per mantenere la pace, diremmo oggi. Il punto però è che il bisogno di denaro andava più veloce dei rifornimenti delle navi, ad esempio dell'oro e dell'argento che provenivano dall'America. E quindi per muovere il commercio e l'economia occorreva trovare, oggi potremmo dire, degli anticipi, no? Non a caso si sviluppa la lettera di cambio come strumento mercantile, no? Che è una sorta di antesignano di un assegno, no? Cioè era un atto notarile con il quale un banchiere che aveva ricevuto un versamento da un cliente ordinava a un altro banchiere operante su un'altra piazza di pagare un beneficiario. Anversa si pone al centro di questa nuova economia, ovviamente perché era situata in un punto strategico affacciata sull'Oceano Atlantico e quindi verso le rotte oltreoceano. E di conseguenza la figura, diciamo, del banchiere finanziatore si potenzia enormemente. C'è una lettera di Jacob Fugger, che era uno di questi banchieri finanzieri più importanti e più potenti, rivolta a niente di meno che all'imperatore Carlo V, in cui in sostanza batte cassa e lo fa in un modo veramente nuovo, cioè da pari a pari, cioè veramente quasi con un tono quasi ricattatorio, in cui gli fa capire che altrimenti i suoi finanziamenti si rivolgeranno ad altri monarchi come il re di Francia, no? Cioè, quindi è la finanza che entra anche nelle decisioni politiche, insomma, no? Sono operazioni finanziarie ma anche politiche. Ecco, però ora vorrei parlare un attimo del romanzo, perché è interessante capire come nasce l'idea di raccontare la storia di William Tyndall, che è un personaggio molto particolare. Poi lo stesso romanzo è molto avventuroso, quindi ecco come nasce l'idea di ripescare questa figura così rilevante nella storia della letteratura e non solo. Dunque, diciamo, nasce l'idea del romanzo, nasce dall'esigenza di uscire un po' dagli schemi e dall'eccesso di specializzazione della narrativa contemporanea, perché indubbiamente l'uomo che scrisse la Bibbia è un romanzo storico, ma è anche una grande storia d'amore tra un uomo e le parole, perché a questo punto credo dobbiamo dire in poche parole chi era William Tyndall. William Tyndall era un riformatore inglese, no? Lui nasce come un luterano, anche se era più un allievo di Erasmo da Rotterdam, e decide di compiere un'impresa davvero titanica, cioè di tradurre i 73 libri di cui è composto il Nuovo e il Vecchio Testamento, di tradurli in inglese, dalle fonti originarie, cioè dal greco e dall'ebraico. Un'impresa davvero titanica, perché bisogna pensare che stiamo parlando appunto di più di 70 libri di natura completamente diversa l'una dall'altra, ci sono storie militari, cronache familiari, testi poetici, visionari, un'impresa per un traduttore veramente incredibile, quasi impossibile. Ma lui fa una cosa ancora più importante che quello che mi ha veramente attratto, e cioè nel fare questa traduzione di fatto inventa l'inglese moderno come lo conosciamo oggi, cioè l'inglese che è passato, per così dire, da Shakespeare a Bob Dylan in un certo senso. Basti pensare che è stato l'inventore di centinaia di espressioni anche proverbiali, ma espressioni come ad esempio Sign of the Times, che ci ricorda, no, il famoso disco di Prince, oppure Peacemaker, per esempio, una parola che nell'epoca contemporanea nostra, insomma, è diventata è molto ricorrente, no? Operatore di pace, oppure scapegoat, cioè capro espiatorio, e mille altro, fall in love, innamorarsi, no? Che è presente in tantissime canzoni che continuiamo ad ascoltare. Insomma, un vero genio della parola, che però è rimasto completamente oscurato per le vicende politiche dell'epoca. Ecco, infatti, da questo punto di vista invitiamo i nostri ascoltatori a leggere il libro, non vogliamo dare anticipazioni su come si svolge la narrazione, perché è veramente molto avvincente. E noi, Marco Videtta, la ringraziamo molto per essere stato con noi questa sera, averci condotto nella Anversa del Cinquecento e anche nella storia avvincente di William Tyndall. Ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione, e cari ascoltatori, alla settimana prossima. Ancora buonasera e grazie. Arrivederci, grazie, buonasera a tutti.